Taccuino di viaggio. Dichiarato Stato nel maggio del 1948, Israele mescola culture e tradizioni diverse. È il paese delle grandi religioni monoteiste, la terra promessa per gli ebrei, e ospita anche alcuni dei luoghi sacri dell'Islam, oltre che una minoranza cristiana. In ogni stagione dell'anno la Terra Santa ispira i turisti provenienti da tutto il mondo, che la visitano per bagnarsi nei suoi mari, percorrere sentieri di montagna, attraversare il deserto e visitare località millenarie, ma anche per lasciarsi trasportare dalla vita notturna delle città costiere. Cosa vedere? Tel Aviv, collina della primavera, si affaccia sul Mar Mediterraneo. È una città giovane che offre un mix di atmosfere, edifici color pastello e grattacieli, spiagge e discoteche. Risalendo verso nord c'è Haifa con il porto commerciale, i teatri, i cinema e le mostre che la rendono il centro culturale del nord del paese. Fu costruita ai piedi del Monte Carmel in una baia naturale e ospita la grotta nella quale, secondo la tradizione, dimorò il profeta Elia. Verso il confine con il Libano, la città vecchia di Acri è definita Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO, con la moschea di Al-Jazar, il bagno turco e la cittadella fortificata ottomana. Il lago d'acqua dolce di Tiberiade o Mare della Galilea è situato a oltre 200 metri sotto il livello del mare e fu la sede principale della predicazione di Gesù, che qui, narra il Vangelo, camminò sulle acque. Anche se vai dagli altri lo stesso, cambia oggi. Gerusalemme! Non puoi amare due padroni! Il tuo Dio è il denaro! Gerusalemme è la città santa, con oltre 3.000 anni di storia. Nella parte vecchia si visita il Monte degli Ulivi, il Giardino dei Getsemani, al centro il Muro del Pianto, la Via Crucis e il Santo Sepolcro, il luogo più venerato dai cristiani. Nazareth, con la Chiesa dell'Annunciazione, è il simbolo della cristianità. A Betlemme, sopra la grotta dove nacque Gesù, è stata eretta la Basilica della Natività. I libri. Beh, innanzitutto un primo consiglio di lettura della Bibbia, indipendentemente da ciò in cui si crede. Lo consiglio perché è sempre una grandissima emozione vedere da vicino i luoghi descritti in un testo che è comunque alla base della cultura occidentale. All'Università L'Orientale di Napoli, Raffaele Esposito insegna lingua e letteratura ebraica moderna e contemporanea. Parlando di Tel Aviv, un autore che anche se è meno noto di altri in Italia, è un grandissimo scrittore, Yoshua Kenaz, che è una delle voci più rappresentative di questa giovane città, e consiglio un suo romanzo ripristinando antichi amori. Consiste in una serie di trame parallele con al centro l'amore, che si incontrano e si intrecciano sullo sfondo di un condominio di Tel Aviv abitato o frequentato da diversi personaggi. E attraverso le vite di questi personaggi lo sguardo dell'autore accompagna il lettore nella società israeliana di oggi con una narrazione avvincente e con un irresistibile humor nero. Spostandoci un po' più a nord, a Haifa, consiglio un romanzo di un autore che non ha bisogno di presentazioni, è Abraham Yoshua, L'amante. È un romanzo da cui nel 99 è stato tratto anche un film italiano, L'amante perduto di Roberto Faenza, e in cui vediamo uno dei protagonisti, Adam, che al volante di una vecchia automobile gira il paese alla ricerca dell'amante di sua moglie. Il lettore viene accompagnato così in un viaggio attraverso i luoghi, innanzitutto ovviamente, ma anche e soprattutto attraverso le diverse realtà e le diverse identità che compongono Israele. Abraham Yoshua, Amos Oz, David Grossman. Negli ultimi anni la letteratura israeliana ha avuto grande seguito in Occidente e in Europa. Quella israeliana è una letteratura ovviamente giovane, espressione di un paese che ha poco più di 60 anni, scritta in una lingua giovane. L'ebraico moderno è nato, o meglio è rinato come lingua parlata poco più di 100 anni fa, però allo stesso tempo è anche l'espressione di una cultura antica, 3.000 anni. In Israele si scrive molto, si legge molto, e le ragioni del successo in Europa e anche in Italia stanno secondo me in qualcosa di ineffabile, in questo fatto che questa letteratura è espressione di un mondo vicino a noi eppure lontano allo stesso tempo. La cucina. La cucina israeliana è costituita da piatti locali tipici del Medio Oriente e da quelli portati dagli ebrei arrivati in Israele da tutto il mondo. Alcuni elementi della cucina araba come falafel, polpette di fave e ceci e hummus, salsa di ceci e sesamo, sono diventati sinonimo di cucina israeliana. La cucina kasher è quella che segue le regole alimentari della religione ebraica stabilite nella Torah, ad esempio il divieto di consumare carne e latticini insieme. Il sabato è il giorno del riposo e della preghiera per gli ebrei. In questa occasione il pranzo è composto da piatti che cuociono lentamente, come lo stufato di carne. Ad Hanukkah, la festa delle luci che cade nel mese di dicembre, si mangiano frittelle di patate. Il capodanno ebraico si celebra a settembre intingendo la frutta nel miele. E dopo aver ammirato il panorama dalla cima del Monte Golan, lasciamo Israele, perché la prossima settimana torneremo in Sud America per visitare il Perù. Un saluto da Maria Chiara Grandis.